Quello che abbiamo fatto innanzitutto già nella giornata di ieri, ma anche nei giorni precedenti, è attrezzarci per recuperare quante più risorse alloggiative possibili, sapendo che c'è un bisogno importante, crescente, rispetto al quale vogliamo e volevamo farci trovare pronti. Oltre a questo, ieri c'è stato un primo momento importante di coordinamento in prefettura, oggi ne seguirà un altro col prefetto e con le altre istituzioni per appunto coordinare le risorse in campo e anche verificare quelle che sono le possibilità che sono date anche dal governo nazionale rispetto a questa accoglienza e ovviamente per fare il punto delle risorse anche locali che possono essere messe a disposizione. In questo senso ieri è stata una giornata importante perché oltre a offrire a questa esigenza di accoglienza il sistema dell'accoglienza bolognese, che è un sistema consolidato, strutturato sul sistema SAI, EXPRAR, e che quindi è un sistema robusto a guida dei comuni e per quanto riguarda il nostro territorio metropolitano, con un progetto metropolitano che coinvolge sostanzialmente tutti i comuni, con capofila il comune di Bologna, il prefetto ci ha informato che ci sarebbe stata la disponibilità di 13.000 posti a livello nazionale per l'attivazione dei CAS. Oltre a questo, la giornata di ieri è stata importante perché invece per quanto riguarda il sistema SAI, nel Consiglio dei Ministri di ieri sera sono stati, diciamo, svincolati dal vincolo di utilizzo solo per l'emergenza Afghanistan i 3.000 posti autorizzati già nel SAI a dicembre, che per Bologna sono 300, nel senso che Bologna ha partecipato con una richiesta di 300, di allargamento di 300 posti del suo progetto SAI. A questi il governo ne ha aggiunti ulteriori 3.000, quindi diciamo verosimilmente il sistema di accoglienza metropolitano SAI, quindi di accoglienza e integrazione, sarà in grado di dare una importante risposta, oltre ovviamente alla possibilità per le prefetture di attivare i CAS. Ecco, quindi questa è, diciamo, la dotazione importante. Ovviamente bisogna trovare le risorse alloggiative, per questo stiamo già lavorando da alcuni giorni con già dei importanti risultati e peraltro ci stiamo anche ponendo il tema di come sostenere le accoglienze informali, spesso realizzate da parenti o amici ucraini presenti già nella nostra città, che hanno accolto connazionali in fuga dall'Ucraina e che ovviamente sono anche quelle accoglienze che vanno sostenute per renderle possibili e di medio-lungo periodo, insomma. Cioè, oltre all'accoglienza istituzionale si sta muovendo anche, come dire, la cittadinanza e anche soggetti come la Curia, ho visto. Sì, c'erano, diciamo, già al tavolo di ieri, eravamo tutte le istituzioni bolognesi e quindi tutti i soggetti hanno dato la loro disponibilità, sia il Comune di Bologna sia la Curia hanno segnalato anche due esperienze diverse ma del tutto coincidenti che si sono realizzate in questi anni a Bologna, cioè il tema dell'accoglienza intrafamiliare che il Comune con il progetto Vesta e la Caritas con un progetto della Caritas sull'accoglienza familiare, diciamo, ha dato buona prova di sé e peraltro per quanto riguarda Vesta è strutturato dentro al sistema SAI, quindi sono posti riconosciuti come posti di accoglienza ufficiali, diciamo. E questa risorsa, ad esempio, è una risorsa che potrà venire molto utile proprio anche per riconoscere delle accoglienze familiari di fatto nei termini che dicevo prima e quindi anche per sostenere quel tipo di accoglienze che si stanno in queste ore realizzando. Quindi, diciamo, le premesse sono tutte importanti in termini di collaborazione istituzionale e di risorse per finanziare le accoglienze. Ovviamente il tema che c'è sempre nei momenti di emergenza ancora di più è quello di trovare appartamenti o strutture, ma in questo caso molto meglio sarebbe appartamenti, essendo che in prevalenza stiamo parlando di nuclei familiari, madre con bambini, per appunto realizzare poi concretamente queste accoglienze in tempi molto rapidi. Abbiamo visto anche che dalla nostra città si è messa in moto anche una grande catena di solidarietà per portare anche aiuti direttamente in Ucraina. Come valuta la risposta della cittadinanza bolognese a questa crisi? Beh, straordinaria. Ieri pomeriggio ho avuto modo insieme al sindaco di visitare la chiesa cattolica di rito di San Michele, dove appunto da alcuni giorni la comunità, che è prevalentemente una comunità parrocchiale ucraina, sta raccogliendo beni e quindi siamo arrivati proprio nel mentre stavano pacchettando farmaci e generi di prima necessità e ci dicevano loro stessi che la risposta di Bologna è stata superiore anche alle aspettative, ma Bologna ha questa caratteristica che ogni volta sorprende ancora di più in positivo anche rispetto a quello che è le sue già abitudini e caratteristiche di generosità, quindi una volta di più questa cosa sta succedendo, è giusto farlo in maniera coordinata per evitare che diciamo vi siano raccolte che poi non riescano a essere efficaci nella, poi, nella distribuzione. Per quello anche ieri col sindaco abbiamo segnalato le tre principali, non sono le uniche, ma le tre principali modalità: quella attraverso il numero verde che Croce Rossa Italiana, UNHCR e UNICEF hanno realizzato per le donazioni monetarie, e invece la Caritas diocesana da un lato e appunto la comunità parrocchiale di San Michele come le altre due invece realtà che appunto possono raccogliere anche beni per poi spedirli queste prossime ore, insomma, nei prossimi giorni in Ucraina. Quindi la risposta è stata una volta di più straordinaria.